Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi è il 1° dicembre, abbiamo deciso di cominciare il countdown ufficiale verso il Natale. Avrete già visto in questi ultimi giorni che molti telegiornali stanno cominciando ad occuparsi delle scelte che stanno facendo le famiglie italiane in questo periodo. Quanti regali faranno trovare sotto l'albero di Natale appunto ad amici e parenti? Quanto budget è previsto per queste spese? A cosa verranno destinate le tredicesime? Oggi anche noi vorremmo sentirvi per capire come sarà il vostro Natale. Che spese avete previsto? Che organizzazione darete o distribuzione darete alla vostra tredicesima? Ci sarà da tappare qualche buco che si è creato in questi mesi e per fortuna che la tredicesima arriva, perché magari si potrà coprire qualche cosa che è rimasto in arretrato. Noi peraltro, poi, a prescindere dalla destinazione della tredicesima, in realtà abbiamo moltissimi dati da commentare, perché in questi giorni le associazioni dei consumatori, ma tanti altri uffici studi, si sono sbizzarriti appunto con le loro analisi previsionali, e quindi commenteremo questi dati, ma soprattutto ci piacerebbe commentare anche le vostre decisioni di spesa di questo periodo. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire, per permettervi di intervenire a Salva Danaio quest'oggi. Se volete, ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Con chi chiacchiereremo questa mattina? Un collega, Luigi Rubinelli, direttore di Markup, che è la rivista del Sole 24 Ore rivolta agli operatori del marketing, del mondo retail, della grande distribuzione. Luigi, ciao, benvenuto. Ciao. Saluto poi Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, perché proprio 2 ore fa Confcommercio ha presentato l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e l'analisi sulle tredicesime e gli orientamenti di spesa delle famiglie italiane in vista delle festività natalizie. Ci sono dati molto interessanti. Dottor Bella, buongiorno. Buongiorno. Albino Russo, responsabile ufficio studi economici di Coop. Russo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Andremo proprio con loro al carrello della spesa e naturalmente non ci mancherà la voce di un'associazione dei consumatori. Stamattina con noi Carlo Pileri, presidente di ADOC, perché ADOC è stata una delle associazioni dei consumatori, non le ho monitorate tutte, ancora non è stato possibile, tra le meno severe rispetto alle previsioni sulle scelte delle famiglie per quello che riguarda il Natale che sta arrivando. Pileri, buongiorno presidente. Buongiorno, salve. Allora, io naturalmente mi aspetto tante telefonate da parte vostra, raccontateci un po' se il vostro sarà un Natale in linea con quello che si è manifestato negli ultimi 3 o 4 anni. Insomma, abbiamo attraversato, la stiamo ancora attraversando, una crisi molto pesante, e questa è un po' la cosa che ricordiamo sempre, naturalmente manifestando tutta la nostra solidarietà. Molte famiglie hanno una condizione cambiata rispetto agli ultimi 2 o 3 anni, perché in molti hanno perso il loro posto di lavoro, qualcun altro l'ha ritrovato, per qualcuno in questa ricerca invece è ancora piuttosto difficile. Quindi chiaramente questa è una condizione che cambia drasticamente le opzioni di scelta per il Natale. Se la tredicesima non arriva, c'è poco da orientarla. Comunque, vi ho ricordato il numero verde, rapidamente diamo un'occhiata alla borsa, ma vi ho già detto come stanno andando le cose stamattina. Abbiamo un generale recupero dopo le prestazioni piuttosto negative degli ultimi giorni a causa del focolaio del debito sovrano dell'Eurozona. Risolta più o meno la crisi irlandese, adesso il mercato aspetta di capire cosa succederà al Portogallo, forse alla Spagna, e qualcuno teme anche per l'Italia. In ogni caso oggi le borse recuperano, più 1% per Parigi, più 1,7% per Francoforte, Londra più 1,30%, Milano più 1,42%. E lasciamo subito la borsa. Allora, prima di andare a Confcommercio, all'associazione dei consumatori, alla Coop, Luigi, io vorrei cominciare con te, che sicuramente mi puoi dare, come dire, l'osservatorio più ampio possibile. Qual è, di primo acchito, la sensazione che tu hai rispetto al Natale che si sta avvicinando per quello che riguarda i consumi delle famiglie italiane? Guarda, non negativissimo. Come ricordavi tu giustamente, c'è da tenere presente la riduzione del reddito collettivo e individuale, ma ci sono dei segnali che ci dicono che c'è qualcosa di positivo. Bisogna segmentare, bisogna andare a vedere a che parte della popolazione stiamo pensando, ma non tutti gli indicatori sono negativi. Te ne do uno che è di Findomestic. Hanno presentato ieri il loro osservatorio, se non ricordo male, questa grande società che si occupa di credito al consumo fondamentalmente. Sì. Esattamente, ed è proprio la previsione di uso del credito nel periodo natalizio. L'8% dice continuerò ad usarlo, il 58% dice no, vedremo. Questo mi sembra un segnale non negativo, non è positivo ma non è negativo. Perché non ha necessità di indebitarsi per acquistare magari qualche bene di consumo, una lavatrice nuova, un televisore, perché poi parliamo sempre di questi, ma non è detto. Il giocattolo per i bambini. O anche un prestito personale, potrebbe essere anche un'altra cosa. Andiamo invece a Confcommercio, così andiamo subito sulla notizia della mattinata. Mariano Bella, direttore ufficio studi di Confcommercio per l'appunto. Il vostro rapporto, la congiuntura economica in prossimità del Natale, aspettando la ripresa dei consumi, ci dia qualche buona notizia. C'è almeno nel rapporto di questo Natale 2010, dottor Bella? Sì, in realtà qui non è difficile dare notizie. Noi come ufficio studi cerchiamo di fare analisi. La notizia è che complessivamente i consumi aggiuntivi del mese di dicembre, che sono regali o anche a tantissime altre cose che non riguardano la festività, diciamo, i consumi aggiuntivi a stagione di dicembre dovrebbe essere sul livello dello scorso anno, tolta l'inflazione, quindi in termini reali è un po' quello che diceva Rubinelli. Praticamente i consumi sono fermi sui livelli dello scorso anno e quindi la notizia non proprio positiva che possiamo dire è che la ripresa del prodotto lordo, cioè i primi tre trimestri del 2009 sono tre trimestri tutti positivi anche se con ritmi decrescenti, la ripresa del PIL non si è ancora tradotta in una ripresa dei consumi, sebbene poi le famiglie anche in termini di scelte e di orientamenti d'acquisto anche in vista del Natale mostrano una vitalità, una voglia di come dire, fare di necessità virtù, ma insomma una virtù che crei benessere, che si pone su basi diverse, cioè con minori quattrini. La tredicesima invece, dottor Bella, come sarà distribuita? Beh, la tredicesima diciamo finisce così, sono circa 30 miliardi tra tredicesima e consumi aggiuntivi dei lavoratori autonomi, no? Anche i lavoratori autonomi festeggeranno il Natale, faranno delle spese aggiuntive, quindi considerando un po' questi 33 miliardi, abbiamo 11 miliardi passano dalla rete distributiva, dai negozi, 22 miliardi finiscono altre spese. Diciamo che un 30%, 300-400 euro a famiglia dovrebbero finire puramente a regali, anche se poi questi conti sono sempre difficili in quanto il viaggio di Natale o il cenone di Natale non è esattamente un regalo, è una spesa da ricorrenza, una spesa occasionale, ma non viene classificata come regalo. Certo, ci sono pure dei pagamenti di arretrati che debbono comunque essere fatti, quindi chi ha disponibilità aggiuntive aggiusta delle situazioni pregresse che necessitano appunto delle correzioni. E glielo confermo anche per esempio con alcune riflessioni già di alcuni ascoltatori che ci stanno arrivando. Giovanni da Salerno dice: purtroppo anche quest'anno solo tappamento buchi fatti di bollette e rate di finanziamento, ma il comune è mezzo gaudio, anche i commercianti piangono e gli sconti sono iniziati già a novembre. Dottor Bella, poi con lei termino naturalmente perché vorrei sentire anche gli orientamenti di spesa per il Natale, che tipo di regali verranno fatti, appunto se anche lì si andrà a risparmio scegliendo determinate categorie merceologiche. Però Albino Russo, responsabile ufficio studi economici di Coop, perché ho richiamato Coop? Perché nei mesi scorsi la Coop ha presentato un altro rapporto sull'andamento dei consumi e si era parlato di una riorganizzazione abbastanza radicale delle scelte delle famiglie, che addirittura operavano delle rinunce per la cura dei propri bambini. Questo era un aspetto che mi aveva colpito così tanto, e siccome invece a Natale i bambini sono le prime persone alle quali si pensa, mi chiedo se avete ancora questa sensazione, dottor Russo. Beh, diciamo che la crisi ha allungato il suo cono d'ombra anche sugli ultimi mesi. La situazione delle famiglie italiane è difficile, naturalmente non per tutti, ma abbiamo un'ampia parte della popolazione che fa fatica a quadrare i conti a fine mese e risparmia dove è possibile, in alcuni casi anche sulle spese necessarie, come per esempio quella della cura della famiglia. Basti dire che solo un quarto degli italiani quest'anno si è dichiarato ha dichiarato di poter affrontare una spesa imprevista di 1000 euro senza nessun tipo di difficoltà, e invece i tre quarti della popolazione hanno dichiarato che molta o poca difficoltà nel sopportare una spesa di questa natura. Gli italiani stanno reagendo però alla crisi in maniera intelligente, riorganizzano i propri budget familiari, danno nuovi sistemi di priorità alla loro spesa, cercano cioè di mantenere la stessa utilità e lo stesso benessere pur spendendo di meno. Questo credo sia la chiave di lettura che riguarderà anche Natale, una spesa attenta, oculata, che tende comunque a premiare gli oggetti di consumo che hanno maggiore appeal con i consumatori, pur però in una dimensione totale dei consumi che non sarà molto diversa dal trend che abbiamo visto negli ultimi mesi. E insomma, ci si riorganizza, si cercherà almeno di affrontare queste festività in maniera non troppo depressa. Andiamo all'Associazione dei Consumatori, Carlo Pileri, perché come dicevo appunto una voce un pochino fuori dal coro, perché Adoc dice che per la prima volta dal 2001 a Natale di quest'anno si registreranno segni di ripresa per quanto riguarda i consumi e l'acquisto dei regali. Secondo le stime di questa organizzazione la spesa sarà in media di 350 euro a famiglia, la fascia di prezzo più gettonata per un singolo regalo sarà fra i 20 e i 40 euro e quindi parliamo di un 4% in più rispetto allo scorso anno. Ma, dottor Pileri, mi pare che gran parte dei doni sarà di seconda mano? Beh, non gran parte, però diciamo che uno su sei rischia di essere sì di seconda mano, nel senso che sono regali riciclati o veramente di seconda mano, cioè acquistati nei mercatini, pensiamo soprattutto alla bigiotteria vintage che sta andando molto, prodotti che vengono acquistati o addirittura barattati, ci sono pure dei centri dove si fa il baratto. Molto è in crescita l'online e questo è un fenomeno abbastanza nuovo per l'Italia, sono un paio d'anni che si sta diffondendo, mentre l'Italia era molto in ritardo rispetto a Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Francia. Ma quello tra l'altro per lei, dottor Pileri, la interrompo già subito, certo. Per una questione di risparmio secondo lei, di denaro o soprattutto anche di tempo, perché ci permette no, di andare tutte un po'... Tutte e due, di tempo e di denaro, perché effettivamente ci sta la possibilità di un buon risparmio sui negozi online, si può arrivare anche a un 20-30% rispetto al negozio tradizionale per lo stesso prodotto e quindi è una specie di saldo anticipato che è possibile ottenere, anche perché chiaramente nei negozi online ci sono minori spese fisse, quindi chiaramente c'è un risparmio da parte del commerciante. Benissimo, allora poi tra l'altro vorrei analizzare con lei anche dove avete colto questi segnali di ripresa, perché per adesso abbiamo raccontato solamente la parte non totalmente positiva della vostra rilevazione, cioè il boom del riciclo e dell'usato e dell'acquisto all'insegna del risparmio sul canale online, ma se di ripresa potete parlare appunto dove l'avete vista. 800 24 00 24, ricordo il numero verde per gli interventi degli ascoltatori che adesso cominciamo a sentire nella seconda parte della trasmissione. Intanto Antonio ci dice: io la tredicesima cercherò di metterla da parte perché ritengo che il futuro non sia roseo. A tra poco. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. Come già anticipatovi, oggi abbiamo deciso di cominciare il countdown ufficiale verso il Natale, abbiamo messo insieme un bel gruppo di ospiti per cercare di capire che tipo di orientamento hanno quest'anno le famiglie italiane, come destineranno la tredicesima, come attrezzeranno anche le festività in termini di cibo, cosa metteranno in tavola, come orienteranno in quelle giornate i loro consumi, che regali faranno trovare sotto l'albero di Natale. Tanti gli ospiti, come vi dicevo, io ricomincio la nostra chiacchierata, peraltro ci sono anche degli ascoltatori pronti ad intervenire. Voglio sentire subito Carlo da Roma per poi riprendere la chiacchierata con i nostri ospiti di oggi. Carlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica, come si organizza quest'anno? Volevo dire, io vorrei parlare un po' di numeri, se no magari non ci rendiamo conto. Io sono una persona normale, sono un impiegato del Comune di Roma. La mia tredicesima, e sono fortunato perché ho un livello pure abbastanza agevole, diciamo, è di circa 1250 euro. Calcoli che a dicembre arrivano in pratica tutte le bollette: Enel, Telecom, gas, l'acqua, la luce, e quindi con questa crisi questo qui assorbe tutta la tredicesima. E quindi Carlo, insomma, sotto l'albero di Natale farà trovare un po' meno regali del solito. Lei ha dei figli, per esempio? Sì, io ho dei figli e in pratica abbiamo destinato alla consegna a Natale regali che già erano utili a ottobre, nel senso che il giubbotto di mio figlio lo faremo l'ho già fatto durante questo periodo e lo consegneremo a Natale, quindi anticipiamo un po' le spese. E vabbè, comunque Carlo, insomma, sarà un regalo utile e speriamo che questo sia uno degli ultimi Natali all'insegna della frugalità, chiamiamola così, Luigi e Rubinelli. Tra l'altro, andando proprio anche a fare nomi e cognomi di qualche grande catena, di qualche grande insegna che so tu hai monitorato abbastanza attentamente in questo periodo, quali sono gli articoli che stanno andando per la maggiore? E comunque la gente è orientata di nuovo a regalo utile? Sì, questa è una componente senz'altro importante. Ti faccio qualche esempio. Media World mi ha detto, in ordine decrescente, più iPad, più TV di piccoli pollici, non grandi, piccoli pollici, videogiochi e console senza fili, cofanetti di gift card, l'IKEA, carta da regalo di fascia bassa di prezzo, gli addobbi sempre di fascia bassa, la ghirlanda che è un must di IKEA e soprattutto l'albero di Natale. Carrefour conferma un Natale ultra tradizionale, ci hanno tenuto a sottolineare ultra tradizionale, il pesce di qualità, la carne di qualità Cappone in primis e gli spumanti italiani che sicuramente roderanno qualche quota di mercato agli champagne. Ah, peraltro poi andremo anche al capitolo vini, prosecchi, vino rosso e quant'altro, perché c'è una inchiesta invece di Codacons e Federconsumatori che racconta che i prezzi di questi generi stanno continuando ad aumentare, quindi chissà che quest'anno dovremo rinunciare anche ad una bevuta in meno a causa di questo. Adesso ci andiamo. Volevo ritornare un attimo a Confcommercio, a Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi, sempre ritornando all'indagine previsionale che hanno presentato questa mattina a Roma. Luigi Rubinelli faceva riferimento agli acquisti di piccola e media tecnologia, e anche voi mi pare che possiate confermare che questo sarà il settore un po' più movimentato quest'anno, presumibilmente. Noi abbiamo compattato gli orientamenti d'acquisto in due grandi aree, la tradizione e l'innovazione. Nell'innovazione abbiamo tablets e iPod foto che crescono in termini di preferenze, gli elettrodomestici, cioè soprattutto consumer electronics, quindi i TV che incorporano innovazione, stabile la telefonia, quindi va sempre bene, e più computer e accessori. L'innovazione nel complesso guadagna 5 punti percentuali, li perde l'area della tradizione, soprattutto abbigliamento, calzature, sport e accessori, e l'editoria tradizionale, cioè libri, CD e DVD. Osservare che questo aspetto del meno 4% che avete rilevato nell'orientamento di spesa per il settore abbigliamento, calzature, sport e accessori un po' confligge con quello che dicono gli ascoltatori, che sostengono che faranno un regalo all'insegna dell'utilità, e questo per tradizione, diciamo, è per antonomasia proprio il settore più utile, o no? Dunque, no, ma è interessante, nel senso, 4% come orientamento d'acquisto del 2010 rispetto al 2009, ma in assoluto l'area dell'abbigliamento è, insieme all'area dell'alimentare, la più grande. Come orientamenti d'acquisto tra 2010 e 2009 noi rileviamo che nell'ambito della tradizione sono soprattutto gli alimentari, il vino e le altre bevande da ricorrenza a tenere botta e a crescere in termini di preferenze, ma in termini assoluti è chiaro che si regaleranno soprattutto alimentari e abbigliamento. L'abbigliamento però è comunque debole da diversi anni ed è difficile immaginare che in prossimità di questo Natale, che sarà appunto complessivamente come il Natale dello scorso anno, che era già brutto rispetto al 2008, che era già brutto rispetto al 2007, ci sia una radicale inversione di tendenza. Alla voce abbigliamento Luigi Rubinelli scuoteva le mani, come mai, come a dire effettivamente la situazione non è Purtroppo non è rosea, saranno le catene fast fashion che conosciamo a far la parte del leone, e nemmeno tutte. Chi ha fatto delle promozioni interessanti tipo NS Maurits con le collezioni di Lanvin avranno una visibilità rispetto ad altre, e le altre guarderanno. Però, insomma, questi sono, come dire, acquisti solo per le ragazze alla Sex and the City. Credo che per la gente comune, magari, ecco, questi nomi di grandi stilisti cadano un po' più nel dimenticatoio, nel disinteresse. Detto questo, andiamo ancora ad altri ascoltatori per poi continuare la nostra chiacchierata anche con Albino Russo di Coop e Carlo Pileri, presidente di ADOC. 800 24 0024, il numero verde per voi, oppure scriveteci al 349 238 6666. Un paio di riflessioni: un ascoltatore dice ogni tanto un po' di frugalità ci vuole, un po' più educativa, con l'opulenza sembra tutto dovuto, e chiaramente c'è anche chi cavalca la crisi per ridiffondere questo messaggio. E Maurizio da Roma che ci dice: io e mia moglie faremo i pochi regali al mercatino da Emergency. Andiamo a Giovanni da Roma. Giovanni, buongiorno. Salve, buongiorno. Io ho 22 anni, sono uno studente di giurisprudenza, sì. E da un anno e mezzo circa vivo con i miei fratelli, noi siamo 5 fratelli. Bella famiglia, Giovanni. Ci siamo trovati a carico una piccola aziendina più o meno in perdita, quindi insomma le cose non vanno sempre rose e fiori. Comunque io volevo dire questo soprattutto ai genitori che magari sono in ascolto così. Un bel regalo per un giovane è anche, non so, un bel corso di formazione a qualcosa, un corso di inizio ad uno strumento, quindi pagare un mese a un corso di recitazione, una cosa del genere. A un certo punto bisogna distaccarsi un po' da questo materialismo che è quello che poi ci ha portato alla crisi, perché tutta la spesa, è tutto il superfluo. Io mi accorgo che quando vivevo con i miei genitori e quando stavamo tutti a casa, era bello, facevamo tanti Natali, c'erano tanti giocattoli, c'erano tanti doni sotto l'albero, però quelle erano grosse spese a cui facevano fronte i miei genitori. E sicuramente, non so, sì, mi hanno lasciato un bel ricordo di un Natale pieno di doni così, però poi in sostanza quei giocattoli non mi sono rimasti. Certo. Insomma, mi è rimasta un po' anche un'amarezza, diciamo, di questi ricordi. Insomma, Giovanni, lei ancora pensa a quel regalo che avrebbe sempre voluto, che non ha mai ricevuto, tipo un corso di lingua a Londra, che magari è anche piuttosto costoso, magari farlo un po' più vicino a casa sua, però avrebbe voluto dell'altro, ha mai avuto addirittura il coraggio di dirlo ai suoi? No, non ho più avuto l'opportunità, però raccogliamo, Giovanni, io hai 22 anni, io mi sento di darti del tu perché potresti essere quasi mio figlio, raccogliamo sicuramente ben volentieri anche il tuo invito ai genitori in ascolto ad essere un po' meno così esagerati anche nel regalo. Io capisco che poi questo è il periodo nel quale è molto difficile fare delle rinunce e qualcuno è forzato a farle, però chi può magari è così essere veramente un po' più educativi. Carlo Pileri, le è piaciuto il messaggio di Giovanni? Ma sì, è un messaggio, diciamo così, sociale, tra virgolette, anche se sappiamo che poi il Natale vuol dire soprattutto il regalo sotto l'albero. Il regalo sotto l'albero è l'oggetto che si scarta, insomma, quindi la sorpresa ancora ha il suo effetto. Magari una sorpresina, proporzionando la disponibilità economica che ci sono, però è così. Comunque sì, è messaggio sociale sicuramente interessante, qualcuno potrebbe coglierlo. Senta, ritornando invece alla vostra indagine previsionale rispetto alle tendenze di consumo di Natale, dicevo che secondo voi si registrano segnali di ripresa, dove li avete colti? Ma intanto voglio dire che più o meno l'andamento che noi abbiamo rilevato è lo stesso che dicevano i rappresentanti del Confcommercio, delle Coop, eccetera, quindi aumenta un po' più l'high tech e soprattutto l'alimentare, diminuisce in maniera consistente l'abbigliamento e anche il piccolo abbigliamento. Il segnale di ripresa che comunque è molto minimo, nel senso che noi abbiamo calcolato circa il 4% in più di spesa del budget che le famiglie dedicheranno ai regali rispetto all'anno scorso, il che vuol dire che si passa da 330 euro a 350 euro di media, è questo quello che noi rileviamo, però teniamo conto che i prodotti costano anche un po' di più, quindi alla fine quello che si acquista è più o meno la stessa quantità dello scorso anno. Bene, allora qualcosa costerà un po' di più, adesso a prescindere da questa rilevazione di Codacons e Federconsumatori, Luigi Rubinelli, Markup, tu che cosa mi puoi dire a questo proposito? Quali articoli saranno un po' più salati quest'anno al supermercato piuttosto anche nelle catene di grande distribuzione di altro genere che tu hai monitorato in questo periodo? Perché io vedo che da questa rilevazione di queste due associazioni dei consumatori costerà molto di più, ad esempio a due cifre l'aumento è stato rispetto allo scorso anno, la carta da regalo, quindi neanche più quella, già volevamo risparmiare incartandoci regali da soli, non lo possiamo più fare. Nell'ambito giocattoli e regali, per esempio le costruzioni che piacciono tanto a mio nipote, dovrà rinunciare a queste a quanto pare. I libri più 10%, però forse è un po' esagerato? Ma guarda, gli aumenti ci saranno a scanso di equivoci. Quando sento queste cifre sobbalzo perché non sono prodotti paragonabili. Non è la lattina di Coca-Cola che sai esattamente cosa costa. Dire che un libro è aumentato rispetto a un altro, con una foliazione diversa, un autore diverso, una presentazione diversa, via dicendo, è molto difficile. Quindi starei attento a dare queste cifre. È chiaro che qualcuno aumenterà qualcosa, ma non più di tanto, perché sennò non ci, le vendite scemeranno. Questa è una regola obbligatoria. Infatti, così si danno, come dire, la zappa sui piedi da soli, commercianti ed altre categorie. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Adesso andremo anche al Prosecco e al Rosso, che insomma pure registrano tassi di crescita dei prezzi ad un paio di cifre, e poi andremo di nuovo alla grande distribuzione per capire, insomma, se si potrà un po' alleggerire l'attenzione natalizia per molte famiglie con qualche sconto in più nelle prossime settimane. A tra poco. E Salvador Naio riprende per l'ultimissima parte, e ancora ad esplorare un po' le indagini che sono uscite in questi giorni sulle proiezioni di consumo del Natale che sta arrivando, e la distribuzione anche della tredicesima che arriverà nell'ambito appunto delle famiglie italiane. C'è un ascoltatore che mi prende in giro, che dice: bellissimo, di attualità il lapsus, anche quest'anno dovremo rinunciare ad una bevuta in meno. Ho detto sì, quindi sono stata un po' ridondante nella mia affermazione. Detto questo, però, effettivamente i vini costano di più, Luigi Rubinelli, come mai? I vini costano... Possiamo più neanche brindare in santa pace, insomma. Ma no, si può fare, si può fare, basta scegliere con accuratezza. La fascia bassa sta perdendo di peso, la fascia alta sta aumentando di prezzo. Bisogna saper scegliere, andare nel canale giusto, scegliere la tipologia di vino giusto, e poi le cose tornano. Albino Russo di Coop, lei me lo conferma tutto questo, insomma, e soprattutto come si cercherà di supportare le famiglie in questo Natale, cercando di renderlo dignitoso e confortevole per tutti? State pensando ad un periodo speciale di promozioni, di sconti, insomma, come vi orienterete in questo dicembre, che sarà un po' difficile per qualche famiglia? Le aziende della grande distribuzione sono al fianco del consumatore già da molti mesi, e l'hanno accompagnato lungo tutto il percorso della crisi. Basti dire che i prezzi nella grande distribuzione, nell'aggregato del paniere di consumo delle famiglie, stanno calando oramai stabilmente da più di un anno. Anche gli ultimi dati degli ultimi mesi vedono una diminuzione dei prezzi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Certamente questa attenzione della grande distribuzione continuerà anche per Natale, continuerà un livello dei prezzi compatibile con le possibilità delle famiglie, tenderà a crescere, come è stato nell'ultimo anno, anche la percentuale di promozioni che si fanno ai consumatori. Si cercherà anche di assecondare, quello che dicevo prima, l'atteggiamento di maggiore sobrietà, di maggiore razionalità del consumatore, cercando di premiarlo magari mediante un'offerta più ampia di prodotti a marchio del distributore, che consentono livelli di qualità simili ai prodotti di marca, ma a un prezzo mediamente inferiore del 25%. Bene, allora, tra l'altro, mentre lei mi stava dando la risposta alla domanda che le ho fatto, stavo monitorando la serie di suggerimenti che un'altra organizzazione, che si chiama Telefono Blu SOS Consumatori, suggerimenti appunto e consigli che questa organizzazione dà per poter arrivare a questo Natale, magari componendo il proprio carrello della spesa o il proprio pacchetto di regali al meglio possibile, senza sorprese dell'ultimo momento. C'era questa voce interessante, che è quella relativa al fare un giro ispettivo ancora prima di iniziare a caricare il carrello, in modo tale che si possa così, senza essere nell'onda emotiva e compulsiva, così fare delle scelte anche adeguate senza dover spendere eccessivamente. Se si fanno ovviamente le scelte dell'ultimo momento, Luigi, questa insomma è una regola che conosciamo tutti, magari partiamo un po' di tempo prima. Partiamo in tempo prima nel negozio giusto. Ci tengo a dire questo, perché il negozio che uno conosce lo domina nei prodotti, nelle marche, soprattutto nei prezzi, come diceva Albino Russo, no? Benissimo, un paio di ascoltatori, poi concludiamo con Mariano Bella e Carlo Pileri. Chi c'è? C'è da un po' Marco, ma molti romani stamattina. Allora Marco, mi aspetti, perché vado anche da Silvio da Verona, perché è un agente di commercio, se non ho capito male. Silvio? Sì, buongiorno. Eccolo qua. Pronto? Ci dica. Niente, io stavo sentendovi prima. Io sono un agente di commercio sull'abbigliamento e giro da 40 anni nel Triveneto. Ma si sta parlando di crisi, ma forse tutti quei signori parlano di tante belle cose, ma i negozi sono strapieni, zeppi di merce, e non stanno vendendo nulla. No, ma abbiamo detto, Silvio, che è uno dei settori... Sono solo massacrati. Dovevamo essere ancora più duri, insomma, nei toni, secondo lei? No, ma direi... Passo di sì, perché non avete idea che cosa hanno spostato a novembre. di pagamenti. Secondo me la crisi deve ancora iniziare, purtroppo. Finora l'abbiamo scappato. Devo dire, Silvio, che questa sua sensazione ce l'hanno in molti. E la seguiremo. Che cosa le devo dire? Vedremo, insomma, che cosa ci aspetta prossimamente. Ancora un altro ascoltatore e poi in rapida conclusione con i nostri ospiti. Marco da Roma, eccoci a lei. Buongiorno. Eh beh, questa sensazione la segnalo anch'io come consumatore e come impiegato. Si parla di spumanti, di champagne, di acquisti compulsivi, di scegliere bene il negozio, è come chiedere a un saldatore di saper fare bene le fatture. Voglio dire, la crisi che deve ancora arrivare ha però già le vittime sul campo, ci sono i caduti, ci sono 800.000 persone che hanno perso il lavoro, ce ne sono 650.000, leggevo su internet giusto stamattina, che sono in cassa integrazione e molti non hanno la cassa integrazione, il lavoro l'hanno perso uguale. Ora si dice, beh, però c'è la sobrietà, ora chiamiamola miseria sobrietà, c'è l'accortezza, chiamiamola miseria accortezza, sono sofismi, sono dei modi per dire la stessa cosa. In assenza di politiche di supporto al cittadino e anche di politiche industriali serie, si pensano a portare solo via le aziende all'estero, rimangono dei periodi di Natale e di saldi che da anni ormai sono in caduta continua. Forse oggi cadranno un 4% meno dell'altro anno, allora diciamo che un 4% più. Beh, consumiamoci e continuiamo a pensare lo champagne, ma io non lo vedo. Grazie Marco, grazie. Concludo allora con Mariano Bella, proprio perché appunto avendo presentato questa mattina il loro rapporto sulle previsioni, sull'andamento del Natale, nelle vostre conclusioni voi dite proprio un po' toccando anche l'aspetto che Marco ha sollevato, non possiamo sollecitare ancora una volta interventi di detassazione per rilanciare i consumi, ma come dire, il rapporto e il circuito è conclamato, Bella. Sì, non possiamo, nel senso che il governo si è già espresso su questa materia, diciamo, in via definitiva, non ci sono i soldi, abbiamo già discusso gli anni scorsi, però noi abbiamo tenuto a sottolineare che i dati, le evidenze statistiche, al di là dei sondaggi, testimoniano che comunque le famiglie, se avessero maggiori redditi, potrebbero anche sviluppare maggiori consumi e quindi sostenere il prodotto lordo. Per cui questione della riforma fiscale, magari inserita nell'ambito della riforma federalista istituzionale fiscale del nostro Paese, che dovesse ridurre la pressione tributaria e contributiva sui redditi da lavoro, farebbe un gran bene anche ai consumi delle famiglie italiane. Riesco ad avere anche 20 secondi di tempo per concludere con Carlo Pileri. Noi non volevamo fare una trasmissione in cui, come dire, piangere troppo Pileri, nel senso che vogliamo qualche volta anche un po' alleggerire la tensione che già la situazione e circostanze troppo ci impone, insomma, però vedo che non è semplice. Insomma, che cosa ne pensa per concludere l'Associazione dei Consumatori? 10 secondi davvero. Ma io mi collego a quello che diceva Silvio, i negozi di abbigliamento sono strapieni di merce e non la vendono, ma mi chiedo, lo chiedo ai commercianti, perché i saldi si fanno dopo il 15 di gennaio e non si fanno prima di Natale come avviene in America, in Inghilterra, in Germania? Se veramente ci sta questa crisi di abbigliamento, perché non si fa uno sforzo verso i consumatori per permettere di acquistare beni ad un prezzo possibile, invece mantenere i prezzi troppo alti fino alle... Lanciamo allora anche questo messaggio, grazie a tutti per essere stati con noi, il tempo mi sfugge di mano, non riesco a ringraziarvi tutti, chissà se prima di Natale riusciamo di nuovo a ritornare su questo argomento. Intanto buona giornata, a domani.